Anche in casa mia, quando succede qualche cosa nelle mie comunità e vedo che il clima è basso, non alto, allora guardo un po' sul calendario che santo tocca, se c'è qualcuno che compie gli anni per caso, qualcuno che ha un anniversario, tiro fuori un pretesto, perché così a tavola sturiamo una bottiglia di Recioto. Bevi in goto e va con Dio, la giaculatoria dei nostri alpini, che pur in mezzo alle battaglie ancora avevano fede, fede in Dio. Spero che non abbiano cancellata quella frase dall'osteria, lassù, di podesteria. È una giaculatoria, per così dire, un po' di buon umore, gente allegra, ce l'aiuta. La tristezza uccide l'anima, sempre un pizzico di buon umore. E c'è chi se lo fa passare il malumore con un po' di musica. Sì, io insisto perché i nostri chierici che sono a Roma imparino a suonare la chitarra durante le vacanze. Per i ragazzi e anche per qualcuno che non è più tanto ragazzo, anche per voi. Se un giorno vi venisse la luna e foste di bassa marea, basta mettersi in soffitta, in cantina, in qualche angolo e là canta che ti passa, dai, muovi quelle corde, quelle dita e muovi un po' la voce, canta che ti passa, canta che ti passa. L'abbiamo imparato dai santi, che furbi i santi, non volevano mai la puzza della bassa marea, ma avevano sbagliato. Subito l'alta marea copre tutto, l'amore, l'amore, la fiducia in lui, subito, subito, no aspettare, andrò a confessarmi alla Madonna della Corona e quando ci andrai fra un mese, campacavallo, ma cerca il primo prete che trovi e chiedi che ti confessi. Quell'là era un papà di famiglia, impiegato dell'Alitalia a Roma, Fiumicino, io arrivavo o dalla Sicilia o dalla Sardegna, ero andato insomma nelle isole per predicare e mi metto anch'io in coda per vidimare la carta d'imbarco e sento uno di questi impiegati all'Italia che dice: prete, ero io solo, qui da me, al mio sportello, e io vado là, ero l'unico, e lui si abbassa un po' e dice: scusi padre se l'ho chiamato così, ho visto lei. E ho subito detto, se dico una parola a quel prete, sono sicuro che oggi non mi dispero. Dico, e dice, padre, io faccio finta di scrivere, tanto lei mi ascolti. Sa, io ho una figlia universitaria, per la quale ho speso capitali, perché è nata gracile, gracilissima. L'ho strappata dalla morte più volte, spendendo capitali. Adesso è all'università, l'ultimo anno, questa mattina non si è degnata di salutarmi prima di partire per la università. Oh, ma dico, su, per così poco. No, non dica così poco, tanto fingeva di scrivere lì. Non dica così poco per un padre di famiglia. Non sentir la figlia che risponde al suo buongiorno, al suo ciao, è come una coltellata nel cuore. E io sono qui stamattina rabbiosissimo e dico, non so come fare a scaricare questo dolore che ho. E ho visto un prete, sì. Ha fatto bene a chiamarmi, anche se mi ha chiamato in quel modo. Sono felice di averla sentita. E oggi tutte le preghiere che farò in aereo da Roma a Villa Franca saranno tutte per lei. No, no, per me, per la mia figlia. Voglio vendicarmi così. Lei non mi ha detto neanche ciao stamattina. E io gli mando dietro tutte le preghiere che, reverendo, lei farà per me. Ed è tornato il sereno sul volto di quell'uomo, l'alta marea di colpo, solo per avergli detto: il viaggio, tutte le preghiere che faccio in aereo saranno per lei. Per la mia figlia? Sì, per la sua figlia, perché d'ora in poi dica ciao papà, stampando un bacio. Oh! E quell'uomo si è commosso e l'ho lasciato con una lacrima agli occhi. Padre, ora non mi dispero, è passato tutto. Ecco il segreto. Quell'uomo si è appellato alla fede, ha visto un prete non travestito. No, ha visto che io vado sempre vestito così come sono adesso. Mi ha riconosciuto prete, mi ha fatto cenno e si è confessato. Un uomo disperato è capace di qualunque crimine. Si è confidato, ma si è attaccato alla fede, perché io vestito così rappresentavo un esperto della fede, un maestro, un educatore nella fede, della fede. Questo dice qual è la nostra vocazione e missione, credere e dare la fede agli altri. Si è appellato alla fede, io gli ho risposto con parole di fede, non gli ho mica detto vado a prendere, non so, un bicchiere di tè, ha bisogno di un... No, io non potevo far questo. Ho detto, gli offrirò tutte le preghiere che farò in aereo da Roma a Villafranca. È bastato questo perché l'alta marea arrivasse così, d'impeto, immediatamente, a salvare quell'uomo. Coraggio, coraggio, coraggio. È la parola d'ordine per chi vuol davvero vivere un cristianesimo autentico ed essere costantemente felice. Sempre coraggio. Dio è con noi. Chi sarà contro di noi?